Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'Europa così com'è non va. Ha bisogno di investire sulla crescita, lo diciamo da quanto? Da tanti mesi. Ha bisogno di investire sul futuro, ha bisogno di investire sull'innovazione. E quindi la mia preoccupazione in questo momento non è tanto sulla situazione singola della Grecia, per la quale credo che con un po' di buona volontà l'accordo possa essere trovato, ma sono molto preoccupato per il fatto che l'Europa rimanga vittima delle sue procedure. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, così com'è l'Europa non va, dice Renzi. Diciamo che questo referendum, al di là di tutto, il referendum greco fa interrogare decisamente in profondità, si spera, l'Unione Europea, e per cercare anche di capire quale unione si vuole avere nel prossimo presente e anche in futuro. Si parla spessissimo delle contraddizioni di non avere una vera unità economica, fiscale, anche soprattutto politica e solidale. Adesso l'avrete sentito anche voi da varie parti, comunque al di là di questo giudizio del Presidente del Consiglio Renzi, che comunque dice, e non è la prima volta che lo dice, che l'Europa così non va, sapete che ci sono le opposizioni in Italia, opposizioni in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega, che già stanno dicendo che ci vuole un referendum sull'Europa anche in Italia. Non è chiarissimo l'obiettivo, nel senso che ognuno ha un obiettivo diverso. Per esempio il Movimento 5 Stelle probabilmente chiederebbe anche l'uscita dall'euro, e mentre Brunetta di Forza Italia dice dobbiamo cambiare questa Europa così com'è, non ci piace anche il modo di stare dentro l'Europa. E voi ritenete che effettivamente possa essere utile e auspicabile un referendum anche in Italia nei confronti dell'Europa? Poi bisogna capire quali sono i dettagli del quesito, ma ritenete che sia opportuno effettivamente interrogare anche le cittadine e i cittadini italiani sul modo di stare in questa Unione Europea? Lo sapete che per i vostri interventi ci sono sempre pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione giorno e notte, oppure i messaggi SMS che potete inviare al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666 per i messaggi e per le vostre opinioni, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte per sapere se secondo voi è opportuno un referendum anche in Italia. Parleremo di molte altre cose, parleremo di scuola, visto che ormai il disegno di legge della buona scuola è arrivato un po' verso la dirittura d'arrivo e continuano le proteste in piazza, su quello anche potete esprimere le vostre opinioni. Poi sentiremo un esponente del governo e un sindacalista della CGIL. Ci sarà anche spazio per il rinvio a giudizio di Conte del CT della Nazionale. Parleremo anche del disegno di legge, il provvedimento che è stato approvato alla Camera sull'autismo, adesso ci deve essere il passaggio al Senato. Insomma, come sapete, un sacco di cose. Intanto per iniziare, sentiamo in sintesi la giornata. La crisi greca. Tsipras non ha presentato il piano, ma parla domani all'Europarlamento. Merkel avverte che mancano le basi per negoziare. La riforma della scuola, il disegno di legge alla Camera per la fase finale dell'iter parlamentare, proteste in piazza Montecitorio, blitz in molte città. Autismo, con 296 voti favorevoli e 6 contrari, la Camera ha approvato la proposta di legge sull'autismo. Punto. Immigrazione. L'Ungheria approva il controverso muro anti-immigrati. Taranto esplode, una bombola di gas, una vittima nel crollo di un palazzo, 6 feriti di cui 2 gravi, un PM apre l'inchiesta. Calcio scommesse, 104 rinviati a processo, tra questi anche Antonio Conte per frode fiscale, sportiva scusate. Poi ciclismo, al Tour de France il tedesco Martin conquista tappa e maglia gialla. Partiamo ovviamente dalla crisi greca, in quella che doveva essere oggi la giornata decisiva, una giornata di incontri a Bruxelles tra Eurogruppo e poi il summit europeo, ma dal primo ministro greco Tsipras non è arrivato l'annunciato piano, ha invece chiesto un prestito ponte. La cancelliera Merkel ha detto che mancano ancora le basi per negoziare. Per le borse è stata un'altra giornata negativa, con Milano che perde il 3%, e tra poco sentiremo un po' i dettagli di questa giornata e anche della situazione attuale della Grecia. E per l'Italia c'è un timore di un contagio greco, ma non sul fronte dei conti pubblici, quanto piuttosto per quanto riguarda la ripresa economica. la mia preoccupazione in questo momento non è tanto sulla situazione singola della Grecia, per la quale credo che con un po' di buona volontà l'accordo possa essere trovato, ma sono molto preoccupato per il fatto che l'Europa rimanga vittima delle sue procedure. Arrivato a Bruxelles, Matteo Renzi interviene così sulla crisi greca, ribadendo un concetto espresso oggi anche nel corso della sua visita al CERN di Ginevra. Serve un'Europa politica, ripete il Presidente del Consiglio. Per dare credibilità alla sua richiesta di aiuti, abbiamo suggerito alla Grecia di definire e adottare quanto prima le riforme, spiega invece il Ministro dell'Economia, Padoan, al termine dell'Eurogruppo. Sia Padoan sia Renzi ribadiscono che non ci sono rischi per l'Italia. Un pericolo di contagio dalla crisi greca a breve è molto limitato, ma nel medio termine, se la percezione di una irreversibilità dell'euro dovesse cambiare, potrebbero esserci preoccupazioni, avverte però il Fondo Monetario Internazionale, che invita il nostro paese ad andare avanti con le riforme a partire da quella della pubblica amministrazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi in primo piano oggi la riforma della scuola, nuovamente in discussione alla Camera, e non sono mancate, dicevo, le proteste degli insegnanti, dei sindacati davanti Montecitorio, che chiedono l'intervento del presidente Mattarella. I sindacati della scuola tornano in piazza con una manifestazione davanti Montecitorio nel giorno in cui la buona scuola targata Renzi arriva in aula alla Camera. 500 tra docenti e personale ATA di tutte le sigle manifestano contro quella che ritengono la peggiore riforma mai fatta. La scuola è stata incatenata. Questo DDL va ritirato perché il preside non è un capo, non è un dirigente d'azienda. Noi siamo incatenati fisicamente adesso così, ma ci ha già incatenato il governo calando questa riforma dall'alto senza mai cercare un contraddittorio vero e proprio. A fianco degli insegnanti, buona parte delle opposizioni, la riforma non va bene perché penalizza la libertà di insegnamento, dice Scotto di Sinistra Ecologia e Libertà. Mattarella non firmi il provvedimento, è incostituzionale, spiega Montevecchi 5 Stelle. Lo andremo a gridare in piazza al Quirinale perché Mattarella non può firmare questo disegno di legge. Critiche dalla Lega, luci ed ombre nel provvedimento per Forza Italia. Dal governo indicano però la bontà della riforma, la novità dell'alternanza scuola-lavoro. Il ministro Giannini promette il confronto resta aperto. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come avevo anticipato, cercheremo di capire a che punto sta il disegno di legge, le ragioni degli uni, degli altri, con un esponente del PD e un sindacalista della CGIL. Sempre per quanto riguarda il governo, è passata oggi alla Camera le norme per la cura dei soggetti autistici per il sostegno delle rispettive famiglie. Il testo sull'autismo è stato approvato a Montecitorio con 290 sì, 6 no e 90 astenuti, Movimento 5 Stelle e SEL, e torna al Senato. Il testo comprende una serie di interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Poi ne parleremo in modo un po' più approfondito. Spostiamoci su Mafia Capitale. A Roma da diverse ore dovrebbe essere ancora in corso in prefettura la riunione del Comitato dell'Ordine per discutere della situazione dell'amministrazione dopo gli arresti di Mafia Capitale, e quello che trapela è un quadro piuttosto fosco. Roma aspetta il giudizio e trema nonostante il caldo torrido. Il futuro della giunta dopo il ciclone di Mafia Capitale si discute nelle stanze della prefettura, prima tappa di un percorso che in teoria potrebbe portare anche allo scioglimento dell'amministrazione. Siamo nelle mani di due servitori dello Stato, sospira Ignazio Marino, mentre il prefetto Franco Gabrielli e il procuratore Giuseppe Pignatone sintetizzano le loro conclusioni davanti al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, prima che la relazione della commissione d'accesso sia inviata entro la settimana al Viminale. Al di là di un'eventuale richiesta di scioglimento, il quadro che trapela è tutt'altro che rassicurante per il Campidoglio, dove per gli appalti sembra ripetersi sempre un unico schema, dove a contare sono i ganci giusti più che le procedure e dove pullano i facilitatori, per dirla con le parole del RAS delle cooperative, Buzzi. Ma questo quadro corruttivo si tradurrà in una richiesta di scioglimento da parte del prefetto? Il sentiero fissato dalle norme è molto stretto e a frenare ci sono anche i distinguo già sottolineati dal procuratore sul diverso comportamento del clan di Carminati con la giunta Alemanno, che è anche indagato, e poi con quella Marino, dove invece a nessun politico è contestata l'aggravante mafiosa. Ma politicamente questo potrebbe non bastare, così Roma aspetta e trema sotto il sole cocente. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Ora ci spostiamo all'estero, perché è stata approvata in Ungheria la legge che prevede la costruzione del controverso muro anti-immigrati. Non possiamo essere come un pezzo di formaggio con i buchi attraverso i quali gli immigrati passano. I confini dell'Europa devono essere protetti. Così parlava il premier ungherese Viktor Orban, annunciando la decisione di erigere una barriera anti-immigrati tra Ungheria e Serbia. Detto fatto, il Parlamento di Budapest ha infatti approvato la legge che prevede la costruzione di un muro lungo 175 km e alto 4 metri per impedire l'ingresso dei profughi. Una risposta al numero record di migranti che hanno raggiunto il paese quest'anno, circa 67.000. La legge è tecnicamente una modifica della normativa esistente sull'immigrazione ed è stata approvata con i voti della maggioranza governativa e degli estremisti nazionalisti di Jobbik e di fatto limita il diritto di asilo nel paese, prevedendo l'espulsione degli immigrati con procedura accelerata. Le nuove regole, duramente criticate dall'Agenzia ONU per i rifugiati, permetteranno alle autorità di cancellare le richieste di asilo se i richiedenti lasceranno la loro residenza designata in Ungheria per più di 48 ore senza autorizzazione. Previsto anche l'esproprio dei terreni che si trovano lungo il tracciato della futura barriera su una larghezza di 10 metri. Queste misure entreranno in vigore il 1 agosto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Di nuovo adesso sulle notizie italiane con la cronaca da Taranto in Puglia. Una persona è morta nel crollo di un edificio di 4 piani che ha provocato anche 8 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. La vittima è un 59enne originario dello Sri Lanka che abitava al piano terra dell'edificio e cinghalesi sono anche molti dei feriti. Col meteo prosegue l'ondata di caldo, chi è al nord la sente particolarmente, secondo i meteorologi passerà alla storia come una delle più intense, un po' da record degli ultimi decenni, questa stagione così calda, una quindicina le città italiane che sono in condizioni di rischio per la salute e che domani saliranno una ventina perché si sposta il caldo verso il centro. Giovedì però poi le temperature dovrebbero cominciare ad abbassarsi. Milano non solo sta vivendo un caldo attanagliante come molti altri comuni italiani, ma sta sopportando i disagi dovuti alle conseguenze dell'uso massiccio dei condizionatori. Dopo che ieri almeno 80 vie sono rimaste al buio, nella notte altri blackout in diverse zone, tra cui Afferi di Guarda, sono durati tutta la notte e, fa sapere A2A, in una ventina di vie addirittura perdurano. Immaginabili le conseguenze per anziani o malati, per le persone bloccate in casa o negli ascensori, ma anche per i lavoratori. Visto che alcune ditte non hanno potuto aprire, un hotel ha dovuto disdire le prenotazioni e mandare via i clienti. Oggi Milano, comunica sempre A2A, ha toccato il record dei consumi elettrici da 10 anni, con un picco di quasi 1625 megawatt assorbiti. Mentre ieri, ha comunicato l'assessore alla salute Mantovani, il sistema di emergenza urgenza di Regione Lombardia ha raggiunto il record assoluto di interventi, 2.236 eventi con 1.323 uscite di ambulanze. Ma il caldo torrido si abbatte anche sulle altre regioni, blackout a macchie di leopardo nella provincia di Venezia, a Verona la situazione è tale da far lanciare a Federica Pellegrini l'allarme su Twitter, stavo per svenire, scrive la campionessa, dopo essermi tuffata in una piscina con acqua a 30 gradi. A Bolzano la notte trascorsa è stata la più calda dal 1850, ma la temperatura altissima provocano problemi anche a chi cerca refrigerio in mare. In Toscana, sulle coste di Ansedonia e Massa, è arrivata l'alga Ostreopsis, che provoca irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie e che di norma vive nei mari tropicali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia di servizio, per così dire, è slitta al 23 luglio la scadenza del nuovo 730 anche per il fai da te, c'è quindi più tempo per trasmettere la dichiarazione dei redditi. 730 precompilato anche per i contribuenti che vogliono fare da soli la propria dichiarazione dei redditi. La scadenza fissata per oggi slitta invece al 23 luglio, come indica una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Per chiudere lo sport, il calcio scommesse, rese note le richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura di Cremona, processo in vista anche per il CT Antonio Conte, ne parleremo poi più tardi qui effetto note. Per il ciclismo, al Tour de France, Tony Martin ha vinto oggi la quarta tappa, la più lunga di questa 102esima edizione della Corsa Gialla. Ora, prima di lasciarci brevemente poi tornare con gli ospiti e i vari temi, volevo leggere alcuni dei vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia con gli sms al 349-238-6666. A proposito di questa richiesta da parte delle opposizioni in Parlamento di almeno la proposta di fare un referendum anche in Italia, non è ancora chiaro se nei confronti dell'euro, nei confronti dell'Europa, per cambiare l'Unione Europea. Comunque, scrive un ascoltatore, certo che c'è bisogno di un referendum sull'Europa in Italia con risultato scontato. Nicolò da Treviso, un referendum consultivo sull'Europa l'abbiamo fatto nel 1989, quando l'88% degli italiani votò a favore di un'Europa molto, dice tra parentesi, più forte. E poi ancora un altro messaggio: Grillo è ridicolo, il referendum che chiede è incostituzionale, difende la Costituzione Grillo solo quando gli porta voti, altrimenti la ignora. Federico scrive: assolutamente necessario il referendum sull'euro. E poi un altro sms: non è opportuno il referendum, l'Unione Europea è schiava dei populismi e degli egoismi nazionali, occorre uno Stato federale. Questo è il 349-238-6666, ne prendo uno dei tanti anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ilaria dice: perché no, visto che oltretutto la politica dell'austerity a oltranza si è rivelata fallimentare, che un vasto movimento popolare possa fare pressione sull'Unione Europea per allentare un po' i paletti mi sembrerebbe auspicabile. Adesso aggiorniamo chi viaggia e poi cominciamo a entrare nel vivo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E dunque cominciamo con i vari temi, con gli ospiti ad approfondire. Vi dicevo, abbiamo da parlare di un sacco di cose anche questa sera, però prima di tutto leggiamo ancora un messaggio, uno dei tanti che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. Stasera abbiamo lanciato un po' l'input del possibile referendum in Italia, sareste d'accordo o no, che da varie parti dell'opposizione, da Forza Italia alla Lega al Movimento 5 Stelle chiedono. Marilena dice no. Domenico Alberto scrive: all'esercizio della buona democrazia non bisognerebbe mai rinunciare. Antonio, grazie alla saggezza dei nostri padri costituenti in Italia non sarebbe possibile un simile scempio politico e giuridico, vedi l'articolo 75 della Costituzione. Adesso torniamo sulle notizie principali. Naturalmente Atene in primo piano, senza un piano però, bisticcio di parole, gelo della Merkel, Obama in pressing, Tsipras domani parlerà al Parlamento europeo. E poi la Banca Centrale Europea dice alto là sulla liquidità alla Grecia, in borse anche per oggi è stata una giornata nera. Disegno di legge sulla scuola, ultimo atto alla Camera, proteste in piazza, manifestazione a Montecitorio, blitz in molte città, poi ne parleremo. Calcio scommesse, PM chiede il rinvio a giudizio anche per il CT Conte. Poi l'Ungheria con il Parlamento che ha approvato il controverso muro, il filo spinato anti-immigrati. E poi il caldo eccezionale che soffoca mezzo Italia, ma sembra che da domani sera già ci dovrebbe essere un po' di sollievo. Europa 24 notte. E siamo in piena Europa, naturalmente, sempre con la questione greca. Oggi doveva essere una giornata decisiva con l'Eurogruppo e poi con, dopo il referendum di Atene, poi il summit europeo, però era atteso un piano che il primo ministro greco Tsipras aveva annunciato, quindi un nuovo piano per capire quale negoziato ci può essere con i creditori. Però, come ci conferma il nostro Sergio Nava, questo piano non è pervenuto. Ma stando a quanto hanno dichiarato più o meno tutti i ministri delle finanze dell'Europa, zona che sono riuniti nel primo pomeriggio, questo piano non c'è stato, o meglio Tsakalotos, che è il nuovo ministro delle finanze greco, è arrivato e ha spiegato, diciamo, a linee generali quello che ora Atene vorrebbe. Allora la questione poi è andata un po' avanti, nel senso che in questo momento è in corso l'Euro Summit, cioè 19 leader della zona euro, tra cui anche Tsipras, e l'impressione che si ha è un po' ambivalente. Da un lato ci sono degli spirali, perché c'è, lo dicevi anche tu prima, la consapevolezza che bisogna fare qualcosa per evitare scossoni anche all'economia mondiale. La telefonata Obama-Tsipras e Obama-Merkel è abbastanza indicativa di questo, e quindi si sta lavorando a quella che è un po' una proposta francese della Commissione Europea, e soprattutto su richiesta greca, di dare un finanziamento ponte, cioè di permettere ai greci di riprendersi un momento, dice, con alcune condizioni, ecco. Pare Tsipras abbia chiesto 7 miliardi, sì. Poi questa cifra è circolata, poi non si è saputo più nulla, però di dare una boccata d'ossigeno, un po' di respiro, usando fondi o magari non utilizzati eccetera, per il mese di luglio, in modo che Tsipras possa pagare la BCE 3 miliardi e mezzo il 20 luglio, possa ripagare l'FMI. Chiaramente questo sottostante alcune condizioni previe, e poi elaborare nel corso del mese di luglio un piano di medio periodo, anche qui basato su riforme eccetera, che possa coprire un periodo ovviamente più lungo. Citavi inevitabilmente la cancelliera Merkel, sentiamo, oggi ha detto che, a parte, da una parte si aprono spiragli, dall'altra ha detto per il momento non ci sono ancora le basi, le condizioni per riprendere il negoziato, sentiamo. Nach dem Auslaufen E allora, come stiamo sentendo, la Merkel dice: non ci sono ancora le basi per un negoziato, servono solidarietà da parte dell'Europa e responsabilità da parte della Grecia. Oggi ci confronteremo, non si tratta più di settimane ma di pochi giorni a disposizione, ascolteremo ciò che Tsipras ha da dirci. Allora, dicevo di una situazione ambivalente, Roberta, perché poi chiaramente invece c'è anche l'irritazione, la frustrazione di numerosi paesi, soprattutto dell'est Europa e anche dei nordici, alcuni nordici, per... che di solito non si menzionano, no? Si parla sempre della Germania. Sì, in realtà è molto più vasto e ampio il fronte di chi... E se guardiamo le dichiarazioni, quelle del ministro delle finanze della Lettonia o quello del ministro delle finanze slovacco, sono molto più dure di quelle del ministro delle finanze tedesco. Cioè, chiedono senza nessuna remora praticamente l'uscita della Grecia e l'Eurozona. Il Lettone oggi ha detto: se un pezzo di Eurozona non funziona, esce e noi andiamo avanti. Fuori. Quindi... E questo fronte comunque c'è, è ampio, è irritato, è frustrato dall'ennesimo rinvio greco e quindi può giocare e remare contro. Ora, questo Eurosummit che è in corso stasera pare, tra l'altro, finirà abbastanza presto perché, e qui arriviamo ad ascoltare il contributo di Jeroen Dijsselbloem, che è il presidente dell'Eurogruppo. There were no new proposals at this point. Dijsselbloem ha dato un po' la roadmap pomeriggio, perché ha detto: Atene presenterà entro domani mattina una richiesta scritta di sostegno al fondo Salva Stati ESM, che è il primo passo per avviare un processo di sblocco dei prestiti nel giro di pochi giorni. Tutto dipenderà dalle proposte greche su conti e riforme. Se saranno ritenute soddisfacenti, appunto, ci sarà appunto una teleconferenza domani mattina dei ministri delle finanze dell'Eurozona. Dijsselbloem ha dato un po' la roadmap. Pare anche che comunque sia già partita la lettera da Atene di richiesta di sostegno, di aiuti al fondo salva stati ISM. Ovviamente però a questo punto si aspetta il piano greco. Domani Tsipras sarà al Parlamento Europeo, probabilmente lo illustrerà, se ci sarà, perché i greci ci hanno abituato anche a diverse sorprese. Insomma, la colpa non è mai solo da una parte, anche i greci hanno avuto le loro colpe, quindi staremo a vedere tra oggi e domani. Comunque entro la settimana stavolta veramente una soluzione va trovata. Ci troviamo domani qui, stessa ora, stesso posto, Sergio Nava. Speriamo. Grazie, ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E continuiamo sulla Grecia, naturalmente, anche con i vostri messaggi, le vostre opinioni, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666. Dice Andrea da Roma: l'euro è il grande capro espiatorio per l'incompetenza dei politici, perché con la lira impoveriscono la classe media a vantaggio loro. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte c'è... Cristiano che dice: coloro che chiedono il referendum, il grillo eccetera, è una macchietta patetica e strumentale per prendere consenso sull'onda del risultato greco, mentre quello che servirebbe è una radicale ridefinizione degli assetti fiscali, debitori, bancari, dilazioni più larghe, più clementi eccetera eccetera. Insomma, fa le sue riflessioni. Ma adesso sentiamo invece le riflessioni del nostro Vittorio Darold, giornalista del Sole 24 Ore, che è ancora ad Atene. Ciao Vittorio. Pronto Vittorio? Sì, mi sentite? Stavi mica mangiando lo tzatziki, no? No. È una moussaka, non so, secondo dei gusti. Vittorio, senti, lì ad Atene com'è l'atmosfera? Perché leggevo oggi di 40.000 licenziati o sospesi negli ultimi giorni, un duro colpo soprattutto all'edilizia e alle opere pubbliche. Come stanno vivendo i greci in questo momento? Dunque, no, il clima è tranquillo, nel senso che oltre alle file composte, ordinate davanti appunto ai bancomat, il clima è abbastanza tranquillo e sereno. Perché? Perché Tsipras è riuscito, dopo la vittoria inaspettata ma molto, molto decisa, a fare una riunione di emergenza con il capo dello Stato e con tutti i partiti, diciamo, dell'opposizione, che hanno firmato una lettera verso la Banca Centrale Europea, quindi a Mario Draghi, chiedendo di alzare il livello dei finanziamenti alle banche. Questo è un atto politico molto importante, perché erano 5 mesi che i partiti di opposizione chiedevano di in qualche modo partecipare. E invece pare che Vittorio non partecipi adesso alla trasmissione perché il cellulare non funziona, c'è qualche problema legato ad Atene col cellulare. Speriamo di no. Intanto vado avanti con i vostri messaggi al 349-238-6666. Riccardo scrive: nessuno sembra aver compreso che i greci sono capaci di andare avanti anche senza soldi grazie al loro grande senso di unità e solidarietà. E poi un altro messaggio invece, forse anche questo di Riccardo, non so, l'uscita della Grecia dall'euro significherebbe la definitiva impossibilità di recuperare il credito, l'unica soluzione possibile è una sorta di saldo e stralcio. Comunque Francia e Germania non si sono fatti troppi problemi quando dovevano vendere le loro armi alla Grecia, perché non se le riprendono indietro adesso? Insomma, ragazzi, lo so, sono discorsi da retroscena, è un po' complessi anche da fare. Il mondo non si basa essenzialmente sulla trasparenza e linearità. Poi Fedele scrive: ma i soldi che si danno ai greci dove vanno a finire? Sembra di tenere vivo uno zombie, è chiaro che non ce la può fare a ripigliarsi, bisogna decidere come, quando staccare le macchine e lasciarlo al suo destino. Fedele, mi sembra molto fedele ma poco solidale. E poi ancora un altro messaggio: Simone, io non ho ancora capito una cosa, nonostante ascolti tutti i giorni la radio, ma la Grecia chiede un prestito per ripagare il prestito? Simone da Lucca, non è una cattiva domanda, perché prima sentivamo anche attraverso Sergio Nava che diceva ha chiesto questo prestito ponte Tsipras di 7 miliardi, però intanto deve dare 3 miliardi a una tranche, non mi ricordo se è stato il Fondo Monetario Internazionale o altri creditori, un'altra parte deve ripagare. Non è una cattiva domanda, però pare che il nostro Vittorio Darold non si riesca a raggiungere al momento, evidentemente gli hanno tagliato anche i fili del telefono, non so, speriamo di no. Intanto un caro saluto ai greci, comunque sia, anche a Vittorio Darold, se non riusciamo a raggiungerlo. Direi allora di prenderci la nostra pausa di ricreazione, voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte e sia anche al 349-238-6666, sempre rispondendo sulla Grecia a l'eventuale opportunità di un referendum anche in Italia, come chiedono le opposizioni in Parlamento. Dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberto Giordano con voi, con me, i vostri messaggi, la vostra interazione, a parte l'ascolto sulla pagina Facebook di Effetto Notte o anche attraverso i messaggi al 349-238-6666, sempre sulle opposizioni, dicevo, che chiedono anche per l'Italia un referendum in testa Grillo, ma anche la Lega e il Forza Italia, per esempio con Brunetta. Allora state rispondendo all'eventuale opportunità di un referendum anche in Italia, al di là che sia in direzione proprio dell'uscita. Qualcuno dice dall'euro, qualcuno dall'Europa, qualcuno dice di riformare l'Europa. Comunque c'è Max che scrive: l'Europa non vede l'ora che l'Italia faccia il referendum, così le banche del nord Europa si beccano tutta l'enorme liquidità italiana. Grillo è pazzo, dice, meno male che Tsipras aveva detto non chiediamo altri soldi, e voilà. E poi Riccardo: nessuno sembra aver compreso, è il messaggio di prima, che i greci sono capaci di andare avanti anche senza soldi grazie al loro grande senso di solidarietà e di unità. Altri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mimmo: assolutamente. Assolutamente sì, referendum è fuori dall'euro immediatamente, si è tolta la cosa più importante, la sovranità monetaria. Adesso, mentre voi continuate con le vostre riflessioni, vi ricordo le notizie più importanti e cambiamo tema. Naturalmente, partendo dalla crisi greca, Tsipras, che non ha presentato oggi il piano ma parla domani all'Europarlamento, e la cancelliera Merkel avverte che mancano le basi per negoziare la riforma della scuola, di cui parleremo tra pochissimo. Autismo: con 296 voti favorevoli e 6 contrari la Camera ha approvato la proposta di legge. Immigrazione: l'Ungheria approva il controverso muro anti-immigrati. Taranto: esplode una bombola di gas, una vittima nel crollo di un palazzo, 6 feriti di cui 2 gravi, e il PM apre un'inchiesta. Calcio: scommesse, 104 rinviati a processo, tra questi anche Antonio Conte, CT della Nazionale, per frode sportiva. Ciclismo: al Tour de France il tedesco Martin conquista tappa e maglia gialla. E siamo alla riforma della scuola, il disegno di legge denominato La Buona Scuola, che è di nuovo all'esame della Camera, un po' agli sgoccioli per la fase finale dell'iter di approvazione parlamentare. Questo dopo il voto di fiducia che, vi ricordate, al maxi emendamento c'era stato al Senato lo scorso 25 giugno. Quindi questo è l'ultimo passaggio parlamentare, poi il disegno di legge sarà legge. Mi pare che il voto sia previsto per domani. In ogni caso, mentre prosegue l'iter del disegno di legge, prosegue anche la la protesta degli addetti ai lavori in piazza Montecitorio. Oggi c'era sit-in dei sindacati e delle associazioni degli insegnanti. Insomma, il mondo della scuola ha manifestato ancora contro il DDL. Sindacati che tra l'altro hanno anche comprato nei giorni scorsi mezza pagina su principali quotidiani per avvertire che la mobilitazione continuerà. Ne parliamo con Domenico Pantaleo, segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL. Buonasera Pantaleo. Buonasera a voi. E con l'onorevole Simona Malpezzi, deputata PD, membro della Commissione Istruzione. Buonasera onorevole Malpezzi. Buonasera e grazie. Grazie a lei della disponibilità. Comincerei da lei, onorevole Malpezzi, perché quello che c'è bisogno anche di sapere per chi ascolta, per chi magari non è addentro a queste cose, è in pochi punti quali sono gli elementi principali di questa riforma, visto che ha fatto tutto questo passaggio parlamentare, che ci sono state delle modifiche, si parla anche di aver ammorbidito, di aver ascoltato anche le varie parti. A che punto si è arrivati? Il testo che cosa prevede come punti principali, onorevole Malpezzi? È un testo che è cambiato anche al Senato ed è il motivo per cui noi adesso ci ritroviamo appunto a rivotarlo, e la quindi Camera. Significa che il dialogo non si è mai interrotto, ed è per noi fondamentale dire che è la scuola dell'autonomia quella a cui vogliamo dare finalmente le gambe. Non diciamo nulla di nuovo, ci sono norme che sono in vigore già dal 1999 e che non sono mai state applicate. Noi, mettendoci risorse sia economiche che umane, perché io lo ricordo, il piano assunzionale, che è quello che ci fa anche accelerare tutti i tempi, è ciò che consentirà alle scuole di avere l'8% di docenti in più, che significa per i ragazzi la continuità didattica, la possibilità di avere maggiori progetti, la possibilità di una flessibilità del lavoro interno, il che significa una scuola che può rispondere davvero alle esigenze del territorio. Ecco, questi sono gli elementi che per noi sono centrali. Dispiace perché ancora una volta si parla nelle piazze di quella che è la situazione dei docenti. Io ricordo che ne assumiamo più di 100.000 immediatamente, altri 60.000 col concorso a partire dal prossimo anno, e non si parla mai, non si pone mai al centro quelli che sono i vantaggi che questa buona scuola porterà per i ragazzi e per le loro famiglie. E onestamente io penso che invece siano loro al centro della scuola, e per loro all'interno della buona scuola c'è molto. Penso per esempio al curriculum per lo studente, che diventa flessibile, quindi dal terzo anno delle superiori i ragazzi potranno potenziare una serie di discipline, perché le scuole finalmente lavoreranno in rete e quindi potranno proporre progetti e discipline che si possano anche scambiare tra di loro, e questo in un'ottica assolutamente europea. Penso all'alternanza scuola-lavoro, che è una proposta. Il rafforzamento di questo progetto è una proposta che viene dal forum degli studenti, 400 ore per gli istituti tecnici e almeno 200 per i licei. Alternanza scuola-lavoro significa formazione e orientamento, dare la possibilità a tutti quindi di capire anche che cos'è la cultura del lavoro, poter procedere poi al percorso anche universitario con un orientamento maggiore, e quindi lotta alla dispersione scolastica. E penso anche all'opportunità, che è quella fondamentale che ci è data dalle assunzioni, della continuità didattica. Questi sono i nodi attraverso i quali noi cerchiamo di migliorare la scuola per i nostri ragazzi e per le famiglie. Grazie onorevole Malpezzi. A questo punto, naturalmente rimanga che poi ci sarà, spero, spazio anche per un'altra risposta, chiedo a Domenico Pantaleo della CGIL, di tutti questi punti elencati dall'onorevole Malpezzi, che quindi fanno parte del testo più o meno definitivo, visto che dovrebbe, credo, il voto finale previsto per domani, che cos'è che non vi convince? Ma intanto io vorrei chiedere alla senatrice Malpezzi, ma come mai, se è così bello questo disegno di legge, all'opposizione di tutto il mondo della scuola ci sono iniziative di mobilitazione da tutte le parti? Io ho l'impressione che le cose stiano molto diversamente. Questo disegno di legge fa fare un passo indietro alla scuola pubblica italiana, perché c'è un'idea secondo la quale bisogna intervenire essenzialmente sugli organizzativi. Non c'è un'idea di scuola che guarda il futuro. penso alla lotta a dispersione scolastica, ma dove è scritto la lotta a dispersione scolastica in questo testo? Penso all'obbligo scolastico a 18 anni, la necessità di elevare i livelli culturali di istruzione di questo paese, penso all'estensione nel mezzogiorno del potenziamento dell'offerta formativa in un mezzogiorno che è stato abbandonato a se stesso e che ha grandi problemi sul versante anche dell'istruzione. Penso alla generalizzazione della scuola dell'infanzia che verrà tra un anno se tutto andrà bene con lo 06. Quindi manca un'idea e manca soprattutto il diritto allo studio, perché guardi, in questa situazione del paese molte ragazze e ragazzi non ce la fanno a studiare, invece il governo fa un'operazione per i ricchi, dà gli sgravi fiscali per chi manda i propri figli nelle scuole private, mentre per la povera gente non si dà nemmeno la possibilità di studiare. Questa è la verità, che è una politica classista di questo governo. Se andiamo poi nel merito, si è fatta una propaganda sui 102.000, sulle 102.000 assunzioni. Bene, noi abbiamo detto bene, questo deve essere un primo passo per tentare di andare al superamento della precarietà nella scuola, che non è colpa di questo governo, è stato colpa dei governi precedenti, ma che va in qualche maniera cancellata. Bisogna pensare ad una scuola in cui la stabilità del lavoro si coniughi con la qualità dell'offerta formativa, ma non avviene tutto questo, perché in realtà si fa un'operazione sui 102.000 e per gli altri, le seconde fasce, le terze fasce, che cosa succede? E in più vorrei segnalare un altro fenomeno che sta avvenendo in queste ore. Mentre il governo parla delle 102.000 assunzioni, in tutti gli uffici regionali scolastici d'Italia ci stanno tagliando organici, perché in realtà sull'organico di fatto si stanno tagliando centinaia di posti e molte scuole non sanno come andare avanti, per non parlare del personale ATA, in cui è previsto dalla legge di Stato. Ai ai ai, stasera quei telefoni va piuttosto male, da Ronda che era in Grecia, dove forse hanno tagliato anche i collegamenti, al nostro Domenico Pantaleo della CGIL. Ci sente? No. Da questo governo dice che da 1 settembre 2020 assistenti tecnici amministrativi vanno a casa, per cui questo è un governo che in realtà ha un'idea aberrante di scuola. E in più poi quest'idea che ci deve essere il dirigente che deve avere la funzione, non si capisce bene, di assumere, licenziare, dare premi. Ora la senatrice Malpezzi, abbiamo discusso, ma con chi avete discusso? Avete discusso tra di voi? Perché un rapporto vero con il mondo della scuola non c'è mai stato. Quel Parlamento che sta approvando questa legge è un Parlamento autoreferenziale che non rappresenta più il mondo. Chiarissimo Pantaleo, adesso ci rimangono un minuto ciascuno per rispondere, perché veramente poi non c'è più tempo. Allora, onorevole Malpezzi, la domanda cruciale di Pantaleo è soprattutto: come mai, se è così buona questa scuola, visto che si chiama la buona scuola, crea tanta mobilitazione di protesta? Beh, perché la mobilitazione viene creata da quei docenti che non sono assunti, e i docenti che non saranno assunti non lo sono perché non hanno fatto un concorso, non hanno un valore che ha lo stesso titolo, valore concorsuale. Quindi chi è in piazza, la maggior parte di quelli che sono in piazza sono coloro che non saranno assunti ancora una volta. Quindi la rappresentazione della scuola è una rappresentazione solo dal punto di vista dei docenti. Noi onestamente non troviamo giusto questo, perché assumiamo i docenti di cui la scuola ha bisogno e contemporaneamente però pensiamo ad una scuola che sia una scuola per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie, e non una scuola aziendalistica, non assolutamente la scuola per i ricchi. Questa è una scuola per tutti, è la scuola pubblica ed è la scuola che garantisce proprio attraverso questi interventi una maggiore efficienza. Io voglio dire, è la scuola dove non mancherà la carta igienica, se devo parlare in soldoni, perché è la scuola dove viene raddoppiato finalmente il fondo di istituto e quindi il fondo di funzionamento delle scuole. Questo era già scritto in legge di stabilità e mi dispiace, lo dico con grande amarezza, che i sindacati, al posto che essere al nostro fianco in un percorso che poteva essere assolutamente utile, perché fa bene stabilizzare i precari, fa benissimo creare, dare alla scuola finalmente l'organico funzionale, cosa che loro hanno sempre chiesto e che noi stiamo facendo, abbiano scelto la strada della piazza, forse per andare a prendersi quel consenso che gli insegnanti non gli stanno dando più, perché io ricordo a Pantaleo che noi abbiamo, oltre che aver fatto tutti gli incontri possibili immaginabili, audito 90 associazioni, non solo i sindacati, ma associazioni di docenti che nei sindacati non si riconoscono chiarissimo, più. Onorevole Malpezzi, quindi esiste un problema che forse loro dovrebbero affrontare. Mi perdoni, abbiamo proprio ancora un minuto, Pantaleo, mi raccomando, un minuto, poi mi sale sopra la sigla. Caviglio, che è parlamentare della Repubblica Italiana, perché non sa che cosa sta dicendo. La prima questione, i sindacati sono fortemente rappresentativi e nell'ultima elezione dell'RSU i sindacati più rappresentativi della scuola hanno preso l'82% a fronte del 75% che è andato a votare. Quando alle elezioni, proprio perché i partiti ormai sono lontani dalle persone, non va a votare più del 50%. Abbiamo oltre il 54-55% delle persone iscritte al sindacato e quelli che stanno in piazza non c'entrano niente solo con i precari, perché in piazza non ci sono solo i precari, ci sono i precari, ci sono i docenti, ci sono i dirigenti scolastici, ci sono le associazioni, ci sono gli ATA, ci sono le persone, il personale comune, c'è il personale ATA, ci sono i studenti, insomma sono tutti contro questo disegno di legge. Pantaleo, chiarissimo anche lei, chiarissimo, mi dispiace, vi devo lasciare, ringrazio l'onorevole Malpezzi e Domenico Pantaleo, sono due mondi che per il momento non si incontrano, vedremo una volta che sarà partorita definitivamente questa riforma della scuola come andranno le cose. Vi ringrazio, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E restiamo sulle attività parlamentari con questa proposta di legge sull'autismo che è passata alla Camera con 296 voti favorevoli, 6 contrari, adesso passerà al Senato e coinvolgo subito Carlo Anau, che è docente di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari all'Università di Modena e Reggio Emilia e membro del comitato scientifico dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Anau, le chiedo, è un buon risultato? Ottimo risultato, direi, perché va a completare il quadro che è fatto da un lato dalla linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011, dalle linee di indirizzo della conferenza unificata del 2012 e presuppone il quarto anello della catena, che è quello dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, attraverso i quali, dopo questa legge, chiaramente d'obbligo, il onorevole De Filippo ha già detto che gli va bene così, sarà d'obbligo mettere una specifica attività di interventi, attività varie per i soggetti con il problema dell'autismo. Quindi Anau, diciamo, è un salto culturale anche questo, come ha definito qualche parlamentare, per esempio della maggioranza, cioè per garantire più tutela alla salute, il miglioramento delle condizioni di vita, l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico? Ma certo, sicuramente, così come anche un salto il disegno di legge sulla buona scuola, per quello che riguarda il problema della disabilità degli alunni in genere, non soltanto gli autistici, ricordiamo che quel testo di legge comprende paro paro quello che è stato l'elaborato della federazione FISH, della federazione SAND, che sono le due grosse associazioni, federazioni di associazioni di persone con disabilità e dei familiari delle persone con disabilità. Quindi su queste cose qui andiamo d'accordo, perfettamente d'accordo, occorrerà veramente che poi queste cose vengano applicate. Ma la Camera ha introdotto un articoletto in cui dice, carissimi, state attenti che come poi questa legge quadro sull'autismo verrà applicata, farà parte di quello che è il monitoraggio che il Ministero deve fare sulle regioni, come si comportano le regioni. Perché sennò siamo troppo spesso abituati a avere delle buone leggi che poi le regioni non applicano e che quindi restano lettera morta. Ma intanto questa legge consolida il diritto soggettivo perfetto delle persone con autismo ad avere quello che le linee guida internazionali e quella dell'Istituto Superiore di Sanità in particolare, le linee di indirizzo della conferenza Stato-Regioni, hanno stabilito che devono essere fatte. Non soltanto 3 o 4 regioni come adesso che si sono adeguate, ma tutte le altre, e ci saranno anche i soldini, perché quello che è la ripartizione del finanziamento con il fondo nazionale, quello generale, quello che va per quote capitarie, ci dovrà essere compreso in questo fondo anche la parte riguardante quelle attività e quegli interventi che sono specifici per l'autismo. Aggiungo infine che non è che oggi si spenda poco per l'autismo, oggi per l'autismo si spende moltissimo, però bisogna spenderlo conformemente alle linee guida, cioè eliminare le cose che non servono o che non hanno ancora una validazione scientifica e fare invece le cose che servono. E la prima delle cose che servono è fare integrazione. Integrazione tra sanità, servizi sociali, scuole e le famiglie. La ringrazio, Carlo Anau, è stato molto chiaro. Adesso appunto vediamo, come diceva lei, di passare dalle parole ai fatti. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi, grazie tante, buonanotte. E non siamo stati molto fortunati con i telefoni oggi, appunto. Invece il nostro Darvici è qua di fronte a me. Ciao, avrei voluto Dardo, chiamarti, ma vista la serata, insomma, ha preferito venire di persona. Ha preso le valigie, è venuto direttamente. Sì, sì. E con Dario parliamo dell'inchiesta sul calcio scommesse, questa novità che riguarda Conte. Sì, novità in realtà che non è tale, perché era atteso il rinvio a giudizio, anzi è quasi auspicato per certi aspetti per l'inchiesta in generale, perché stiamo parlando della madre di tutte le inchieste sul calcio scommesse, la Last Bet, quella che era partita ben 4 anni fa da Cremona, e indagini quanto mai lunghe anche per la loro complessità, basti pensare ai tempi molto lunghi che ha richiesto l'incidente probatorio per poter accedere a cellulari, PC, smartphone di molti degli indagati, e adesso si arriva al rinvio a giudizio. 104 i rinviati a giudizio, sicuramente quello del CT Conte è il nome che fa più rumore. Perché? Perché con questa richiesta a giudizio di fatto Conte molto probabilmente arriverà a sedere sulla panchina azzurra anche durante gli europei del 2016 in Francia. Situazione quanto mai scomoda, difficile che la giustizia italiana riesca prima del prossimo giugno a dirimere questo nodo, almeno per quanto riguarda la sentenza di primo appello. Di fatto... Quindi sarà diciamo lì sulla panchina quando ancora non è stato chiarita la sua posizione. Sì, sì, sì, sì. Di fatto la sua posizione già rispetto al previsto è stata in qualche modo alleggerita, perché si tratta appunto di una imputazione per frode sportiva, non per associazione a delinquere. In questo caso a Conte viene contestata un'unica partita, quella tra Albino Leff e Siena del 29 maggio del 2011. Allora Conte era allenatore dei Toscani, poi avrebbe iniziato il ciclo vincente alla Juventus. Però è chiaro che è un'ombra che con cui il CT non vorrebbe arrivare a quell'appuntamento. Comprendiamo. Grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo alle 22.